Mia cara sorella, a Verona sentiamo sempre opere. Una è intitolata Il Ruggero. Oronte, il padre di Bradamante, è un principe, lo fa il signor Afferi, un bravo cantante, un baritono. Bradamante, figlia d'Oronte, innamorata di Ruggero, ha una voce passabile e la figura non sarebbe male, ma distona come il diavolo. La fa la moglie di Afferi. Ma c'è tanto sussurro nel teatro che non si sente niente. Ah, tutti si mascherano adesso ed è molto comodo. Quando si ha una maschera sopra il cappello, si ha il privilegio di non levarselo se qualcuno vi saluta e di non chiamare nessuno col proprio nome, ma di dire sempre «Servitore umilissimo, gnora maschera, cospetto di Baco è divertente». A Mantova danno il Demetrio di Hasse. La prima donna canta bene, ma così debolmente che se la si vedesse solo cantare senza recitare, si potrebbe pensare che non canta, non apre la bocca. E i suoni sono dei gemiti. Bene il primo ballerino, bene anche la prima ballerina, e dicono che non sia brutta, ma non l'ho vista da vicino. A Cremona l'orchestra è buona. La prima donna non è male, ma molto vecchia e brutta. Il primo uomo è il musico Cicognani, bella voce e bel cantabile. I due altri castrati, giovani e passabili. Il tenore si chiama... non lo so. A casa, sopra di noi c'è un violinista, sotto ce n'è un altro, accanto un maestro di canto che dà lezione, nella stanza di fronte un oboista. È una bellezza per comporre, ti fa venire tante idee. Moglie carissima, il conte Firmian, governatore dell'impero in Lombardia, ha fatto dono a Wolfgang delle opere di Metastasio in 9 volumi. È una delle edizioni più belle, quella di Torino, rilegata benissimo. A Parma? Abbiamo conosciuto una cantante e l'abbiamo ascoltata molto bene a casa sua. È la famosa Bastardella, che primo ha una bella voce, secondo un aspetto molto galante e terzo un'altezza di voce incredibile. Io non potevo credere che la signora Guiari, detta la Bastardella, raggiungesse il do sopra acuto, ma le mie orecchie me l'hanno provato. Ha cantato tutti i passaggi e i trilli che Wolfgang ha scritto, certo un po' meno forte che le note gravi, ma con molta grazia, come l'ottavino di un organo. Non è bella, neppure brutta. Lancia talvolta uno sguardo selvaggio come chi ha le convulsioni e zoppica da una gamba. Ha buona reputazione. La lettera dedicata alla Bastardella, scritta a Bologna nel marzo 1770, riporta alcuni vocalizzi che richiedono grande agilità ed estensione. Nel catalogo mozartiano figura una sola opera pensata per esercitare un cantante, i solfeggi per voce sola, composti a Vienna nel 1782. Mm.